Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. A differenza delle prigioni in cui è stato, Engels è un campo di lavoro, anzi, rieducazione tramite il lavoro. Si comincia dopo colazione. La caratteristica di questo lavoro è che di norma non serve a niente. Subito dopo l'arrivo di Edouard sono cadute piogge abbondanti e da allora il campo è perennemente allagato. L'amministrazione ha stabilito che al momento dei 3 appelli quotidiani il terreno deve essere asciutto, pena il divieto per tutti di guardare la televisione. Edouard personalmente se ne infischia, ma per gli altri sarebbe un dramma. Il risultato è uno spettacolo da film comico. Dalla mattina alla sera, file di detenuti svuotano con bicchieri pozzanghere che tornano a riempirsi di continuo. All'inizio Edouard aveva pensato che sarebbe stato più razionale pavimentare il campo per favorire il deflusso dell'acqua. Aveva anche pensato di farlo notare, ma per fortuna si è trattenuto. Ha capito in tempo che l'amministrazione penitenziaria non si comporta come un datore di lavoro razionale. E questo perché la fatica di Sisifo è una vecchia tradizione dei campi. Nulla è più deprimente, hanno osservato tutti i reduci dal gulag, che spaccarsi la schiena con un lavoro inutile e assurdo, come scavare una buca, poi scavarne un'altra da riempire con la terra della prima e così via. Il bravo Zec è uno Zec abbattuto, incapace di reagire. Anche questo è intenzionale. A 60 anni, Edouard è ritenuto un pensionato e come tale è esentato dai lavori pesanti, ma non per questo è libero di scrivere, leggere o meditare come poteva fare Lefortova e Saratov. Finché non viene sera, gli è proibito tornare nella baracca ai libri e ai quaderni, ma deve dedicarsi a operazioni di pulizia, anch'esse assurde. Pulire bene, ma veramente bene, una fila di latrine richiede al massimo un'ora. A Edouard ne danno 4 e lui ce ne metterà 4. 4 volte egli percorrerà la faticosa tela. Non ci saranno al mondo cessi più splendenti e nessuno lo vedrà un solo secondo con le mani in mano. Non si tratta soltanto di zelo esteriore. Edouard non batte la fiacca nemmeno interiormente. Le incombenze moleste e ripetitive invitano alle fantasticherie. E Sam Pasha Rupkin, lo yogin di Saratov, lo ha messo in guardia. La fantasticheria è l'esatto opposto della meditazione. È un leggero rumore di fondo mentale, di cui i più nemmeno si accorgono, ma è proprio il modo peggiore di sprecare tempo e energia. Per evitare questo rischio, Edouard conta i respiri, li prolunga, si concentra sul percorso dell'aria dalle narici al basso ventre e ritorno, oppure recita a se stesso, prestando attenzione a ogni verso, alcune poesie che sa a memoria, ma per lo più scrive. Mentalmente, ovvio, come faceva Salgenitsin 50 anni prima di lui, componendo una frase alla volta. Un paragrafo alla volta, poi un capitolo alla volta, memorizzandoli via via, migliorando giorno dopo giorno le prestazioni di un disco rigido già di per sé stupefacente. In teoria il regolamento del campo non proibisce di scrivere, ma da un lato Edouard ha poco tempo a disposizione, al massimo un'ora la sera per salvare il lavoro della giornata, dall'altro, se scrive, risveglia la curiosità dei secondini, una curiosità meno rispettosa che nelle prigioni precedenti. Un giorno, uno di quei tizi torvi e sospettosi ha preteso di vedere il suo quaderno, lo ha sfogliato in un silenzio carico di minacce e alla fine gli ha chiesto: «Parli di me qui dentro». Edouard se l'è vista brutta e da allora prende soltanto appunti diplomaticamente edulcorati. Conta sulla memoria per integrarli quando sarà fuori. Fa bene. Poco prima della sua scarcerazione, i quaderni spariranno misteriosamente e Edouard sarà costretto a riscrivere dall'inizio alla fine, senza l'aiuto di nessun appunto, il libro composto a Engels, il quale libro ci ha soltanto guadagnato, pensa lui. Come raccontare quel che mi tocca raccontare adesso? È un'esperienza che non si può raccontare. Mancano le parole. Se uno non l'ha vissuta, non ne ha la più pallida idea, e io non l'ho vissuta. A parte Edouard, conosco una sola persona che l'abbia vissuta. È il mio migliore amico, Hervé Clerc, il quale ne ha parlato in un libro che è anche un saggio sul buddismo e si intitola Les choses comme elles sont. Preferisco le sue parole a quelle di Edouard, ma a me tocca raccontare l'esperienza di Edouard. Ci provo. Lui ricorda benissimo l'attimo precedente. Un attimo normale, di quelli che tessono la tela del tempo normale. Sta pulendo l'acquario che si trova nell'ufficio di un ufficiale superiore. Nell'amministrazione penitenziaria tutti gli uffici degli ufficiali superiori sono forniti di acquario. A tutti quanti piacciono i pesci? E se a uno di loro non dovessero piacere, può chiedere di far portare via l'acquario? Più probabilmente non ci fanno nemmeno caso. A Edouard comunque piace pulire gli acquari. È un lavoro meno sporco e più divertente che pulire i cessi. Ha preso i pesci con un guadino e li ha messi in una tinozza. Poi con un secchiello ha svuotato l'acquario, che ora è asciutto e ne sta lucidando le pareti con una spugna. Pur impegnato in questo compito, Edouard controlla il proprio respiro. È calmo, concentrato, attento a ciò che fa e a ciò che sente. Non si aspetta niente di particolare. E poi, senza preavviso, tutto si ferma. Il tempo, lo spazio, eppure non è la morte. Nulla di quanto lo circonda ha mutato aspetto, nell'acquario, nei pesci nella tinozza, nell'ufficio, nel cielo, oltre la finestra dell'ufficio, ma è come se tutto ciò fosse stato fino a quel momento soltanto un sogno ed un tratto diventasse pienamente reale, elevato al quadrato, svelato e insieme annullato. Edouard viene risucchiato da un vuoto più pieno di tutto ciò che è pieno al mondo, da un'assenza più presente di tutto ciò che riempie il mondo della propria presenza. Non è più da nessuna parte ed è interamente lì. Non esiste più e non è mai stato così vivo. Non c'è più nulla, c'è tutto. La si può chiamare trance, estasi, esperienza mistica. Il mio amico Hervé dice che è un rapimento. Vorrei essere più diffuso, più preciso, più convincente, ma so bene che non posso far altro che accumulare ossimori. Oscura chiarezza, pienezza del vuoto, vibrazione immobile, e potrei proseguire a lungo senza che né io né il lettore facciamo un passo avanti. Confrontando le loro esperienze e le loro parole, posso soltanto dire che Hervé e Edouard sanno con assoluta certezza di aver avuto accesso, il primo 30 anni fa in un appartamento parigino, il secondo mentre puliva un acquario nell'ufficio di un ufficiale nel penitenziario numero 13 di Engels, a ciò che i buddhisti chiamano nirvana, il reale puro senza filtri. Dall'esterno si può certo obiettare, d'accordo, ma cosa ci garantisce che non fosse un'allucinazione, un'illusione, un'impostura? Nulla, tranne l'essenziale. Quando uno giunge al nirvana lo sa e basta, e sa che quell'annullamento e quella luce non si possono imitare. Hervé e Edouard dicono anche un'altra cosa. Quando si è ghermiti, travolti, sollevati fin là, si sente, ammesso che ci sia ancora qualcuno che senta, qualcosa di simile ha un immenso sollievo. Il desiderio e l'angoscia che sono alla base della vita umana si dissolvono. Ritorneranno, naturalmente, perché se non si è un risvegliato, uno di quelli che dicono gli indù, nascono una volta ogni 100 anni, non si può rimanere per sempre in tale condizione. Ma si è assaporata la vita senza desiderio e senza angoscia, si sa per esperienza diretta che cosa significhi tirarsi fuori. Poi si ridiscende. Dopo aver vissuto in un lampo tutta la durata del mondo e il suo annullamento, si ricade nel tempo. Si ritrova il vecchio binomio, desiderio e angoscia. Ci si chiede che ci faccio qui. Allora si può, come Hervé, trascorrere i 30 anni successivi a riflettere e assimilare questa esperienza ineguagliabile. Oppure si può, come Edouard, tornare nella propria baracca, sdraiarsi sul materasso, prendere il quaderno e scrivere. Questo mi aspettavo da me. Ora nessun castigo può toccarmi, perché saprò trasformarlo in felicità. Uno come me può trarre gioia anche dalla morte, non tornerò alle emozioni dell'uomo comune. Ho scritto queste pagine delicate a casa di Hervé, in Svizzera, nello chalet in cui lui e io ci incontriamo due volte all'anno per andare a camminare sulle montagne del Vallese. E nella biblioteca dello chalet ho trovato una raccolta di articoli dedicata a Julius Evola. Evola, per farla breve, era un fascista italiano di notevole levatura intellettuale, insieme nicciano e buddista, il che lo rende un mito per i fascisti colti come Dugin. Nella cozzaglia di erudizione tradizionalista disseminata in questa raccolta spicca un bel testo di Marguerite Yourcenar. Mi sono annotato queste parole che mi hanno colpito e che non ho potuto fare a meno di collegare a Edouard. Quando la forza acquisita tramite le discipline mentali viene deviata a vantaggio dell'avidità, dell'orgoglio e della volontà di potenza, essa non si annulla, ma precipita ipso facto in un mondo in cui ogni azione si concatena un'altra e ogni eccesso di forza ricade su chi lo esercita. È evidente che il barone Julius Evola, cui nulla della grande tradizione tantrica era ignoto, non si è mai preoccupato di procurarsi l'arma segreta dei lama tibetani, il pugnale che uccide l'io. Edouard viene convocato nell'ufficio del direttore. Per uno Zec, una simile convocazione è a priori un brutto segno. Il direttore, Edouard, l'ha visto soltanto una volta il giorno del suo arrivo e gli è bastata. Oggi invece quell'uomo, noto per la sua freddezza, accoglie Edouard con cortesia e gli comunica che è attesa la visita di una di quelle delegazioni a cui le autorità si compiacciono tanto di mostrare il campo. Uno dei componenti della delegazione, il consigliere del presidente per i diritti umani, Pristavkin, ha espresso il desiderio di incontrare il detenuto Savienka. Il detenuto Savienka ha nulla in contrario? Il detenuto Savienka non ci si raccapezza. Innanzitutto, perché gli viene chiesto il suo parere. Mentre uno Zec non è tenuto a essere o meno d'accordo, deve soltanto rigare dritto. In secondo luogo, per l'interesse che manifesta nei suoi confronti Pristavkin. Questi è un apparatchik della cultura, un garbaciofiano convinto, che Edouard conosce per esserselo trovato di fronte in un dibattito sui crimini del comunismo. In quell'occasione i due hanno avuto un violento litigio. Edouard ha accusato Pristavkin di essere un traditore e un venduto, e a sua volta in seguito Pristavkin non ha perso occasione per attaccare Edouard, il fascista, tanto da scrivere sulla Literaturnaja Gazeta che rimanga in prigione, e quello è il posto in cui sta meglio. Perciò Edouard non si fida di Pristavkin e teme che quell'onore gli attiri dei sospetti. Comunque accetta. E il giorno stabilito si ritrova in una sala d'attesa attigua all'ufficio del direttore, in compagnia di un'altra decina di detenuti ripuliti e ben sbarbati, evidentemente scelti con cura per fare buona impressione sui delegati. Aspettano tutti senza aprire bocca, senza osare guardarsi, imbarazzati di trovarsi lì. Alla fine i delegati arrivano. Dal colorito vermiglio si capisce che a pranzo hanno alzato un po' il gomito. Passano una mezz'ora a chiedere ai detenuti come vanno le cose, se sono trattati bene. E Edouard dentro di sé sghignazza. Sono così idioti da credere che uno Zec, in presenza del direttore e sapendo cosa lo aspetta appena i visitatori se ne saranno andati, avrà il coraggio di rispondere che no, che le cose non vanno affatto bene, che sono trattati male? Di sottecchi Edouard osserva Pristavkin, il quale di sottecchi osserva Edouard. Dall'ultima volta che si sono visti, Pristavkin ha perduto un po' di capelli. Si è appesantito e gli è venuta la coupe rose. La vita di avventuriero conserva meglio di quella di apparatchik, pensa il tonico Edouard. Alla fine Pristavkin chiede al direttore, ma a voce abbastanza alta perché tutti possano sentirlo, il permesso di parlare a quattro occhi con il detenuto Limonov. Savienka, rettifica l'interessato. Ma certo, si affretta a rispondere il direttore, vada pure nel mio ufficio. I due si appartano nell'ufficio, sotto lo sguardo stupefatto degli altri. Un istante di indecisione, dove sedersi? Edouard, dipendesse da lui, rimarrebbe in piedi lasciando all'altro la poltrona del direttore. È questa la realtà delle loro situazioni. E se gli proponessero uno scambio, Edouard non lo accetterebbe, ma Pristavkin lo prende per un braccio e si accomoda entrambi sul divanetto davanti al tavolino come vecchi amici. «Sigaro?» propone Pristavkin. Edouard risponde che non fuma. «Allora», riprende Pristavkin, il cui alito sa di cognac, «lo scherzo è durato abbastanza. Edouard Veniaminovich, lei è un grande scrittore russo. Il suo libro dell'acqua è un capolavoro. Sì, sì, se lo lasci dire, un capolavoro. Del resto, gli esperti non si sbagliano. Ha visto che è entrato nella shortlist del Booker Prize? Il Pen Club è preoccupato per la sua sorte. Gli organi non lo ammetteranno mai ufficialmente, è ovvio, ma l'accusa di terrorismo non regge. I tempi cambiano, non bisogna sbagliare bersaglio. La vera criminalità oggi è quella economica. Uno come Mikhail Khodorkovsky, che si mette in tasca miliardi di dollari, lui sì che è un criminale, ed è la peggior specie, ed è stato mille volte giusto schiaffarlo in prigione. Ma un artista come lei, Edouard Veniaminovich, un maestro della prosa russa, il suo posto non è fra gli assassini. Alcuni sono ottime persone, replica Edouard. Ah sì, lei trova che gli assassini siano brave persone, scoppia a ridere Pristavkin bonario. Questa è un'opinione da scrittore, lo diceva anche Dostoevsky. Comunque, con lei sono stati troppo severi. Ma non si preoccupi, Edouard Veniaminovich, sistemeremo la faccenda. Non mi dispiacerebbe, dice prudentemente Edouard. Immagino. Ora, tutto diventerebbe più semplice se lei si riconoscesse colpevole. Non la prenda a quel modo. Lo so che al processo si è rifiutato di farlo, ma mi dia retta. Sarebbe una pura formalità, giusto per non far perdere la faccia ai nostri amici dell'FSB. Lei sa quanto sono permalosi. Potrebbe anche non saperlo nessuno. Sarà nel suo dossier, ecco tutto. Lei si dichiara colpevole e nel giro di un mese, due al massimo, è fuori. Edouard lo guarda, cercando di intuire dal suo volto se gli stanno tendendo una trappola. Poi scuote la testa. Più che la libertà, gli preme la sua reputazione di duro che non si cala le brache. «Ci pensi», conclude Pristavkin. «Dopo questa visita, il suo destino è incerto. E il fatto che esso venga deciso ai piani alti suscita strane reazioni intorno a lui. Rispetto, invidia e anche la convinzione che sia meglio stargli alla larga. Quando gliene parlano, Edouard minimizza. Quel Pristavkin doveva essere ubriaco, è una cosa che non avrà seguito. Si sbaglia. Il suo avvocato viene apposta da Mosca per confermarglielo. Il vento è cambiato. Stavolta in suo favore. Edouard non è più considerato un terrorista, ma una specie di Dostoevsky, proprio così, che scrive grandi libri dalle profondità del sottosuolo. E quell'opportunista di Pristavkin deve aver pensato che si tratta di un'occasione imperdibile per darsi aria da liberale. Edouard, però, si ostina a rifiutare la condizione che gli è stata posta. Ne va del suo onore. L'avvocato propone una soluzione da casista: eludere la questione della colpevolezza e insistere invece sul fatto che il condannato non ha mai contestato la sentenza. Così va bene, accondiscende Edouard. Dopo va tutto molto in fretta, anche troppo. Edouard si era adattato ai ritmi di una condanna lunga, alla quale aveva adeguato i suoi pensieri, i suoi progetti, persino il suo metabolismo. Ora gli comunicano che da lì a 10 giorni, 8, 3, sarà tutto finito. La scenografia verrà smontata, le comparse licenziate, si passa a un altro film. Il direttore non convoca Edouard, ma lo invita a recarsi nel suo ufficio e gli riserva un trattamento da VIP, come se fosse stato tutto uno scherzo, un gioco di ruoli che una volta concluso si può commentare fra uomini di mondo. Il direttore si fa autografare la sua copia del libro dell'acqua, si informa di quale ricordo l'ex detenuto di riguardo conserverà del suo istituto. «Lo raccomanderò senz'altro ai miei amici», risponde Edward. «E il direttore è deliziato dal suo umorismo. Lo raccomanderà ai suoi amici». «Che burlone che è lei, Edward Beniaminovic!» A Engels le scarcerazioni anticipate sono rare e quella di Edouard puzza così tanto di raccomandazione da metterlo a disagio con i compagni. Dopo aver fatto di tutto, con assoluta sincerità, per mostrare agli altri detenuti di essere un piccolo mugì come loro in balia del vento ostile delle prigioni, ora Edouard rischia di apparire come uno di quei giornalisti che per il tempo di un reportage fingono di essere un senza tetto, un galeotto, e terminato il safari se ne vanno dicendo «Ciao ragazzi, è stato fantastico, penserò a voi, vi manderò del foie gras a Natale», promessa di cui in genere si dimenticano. Per uno così, Edouard proverebbe solo disgusto ed è insieme sollevato e sorpreso quando si accorge che a Engels nessuno ce l'ha con lui. Anzi, il suo prestigio è salito alle stelle. A quanto pare sono tutti contenti di conoscere una persona importante, il cui caso viene sistemato con qualche intrallazzo nelle alte sfere, e di poter raccontare che loro lo hanno conosciuto. E alla fine è quell'eccessiva ingenuità a disgustare un po' Edouard. Il giorno prima della scarcerazione riceve il permesso di riprendersi la valigia lasciata al deposito. Questa valigia è uno dei suoi feticci. Edouard l'ha fregata a Steven quando ha lasciato New York diretto a Parigi e poi se l'è portata dietro ovunque, in guerra, nell'Altai, nelle varie prigioni in cui è stato. Dentro ci sono due camicie, una nera e una bianca. La sera, nella baracca, c'è una festicciola d'addio, abbracci, pacchi sulle spalle, e si discute a lungo su quale delle due camicie sia la più adatta per la sua uscita dal carcere. Non è una questione di secondaria importanza, perché l'evento sarà filmato dietro richiesta della televisione. Edouard era titubante, ma il direttore ha insistito molto e i detenuti sono eccitati dall'idea come bambini che aspettano di essere portati al circo. «Devi mettere quella bianca, è più elegante», dice Anton, un simpatico ragazzo condannato a 30 anni per omicidio con l'aggravante della crudeltà. «Ma Anton», ribatte Edouard, «esco di prigione, non da un night. In ogni caso devi essere elegante, sei uno scrittore famoso». «Qui non ci sono scrittori famosi, ma soltanto Zec», risponde Edouard. E prima ancora di terminare la frase, si vergogna per quanto essa è falsa e demagogica. «Certo che lui è uno scrittore famoso. Certo che il suo destino non ha nulla da spartire con quello di Anton». Fin dalla sveglia la colonia è sottosopra per la presenza della troupe televisiva, composta da una mezza dozzina di persone, un giornalista, un regista, un cineoperatore, un tecnico del suono e qualche assistente, fra cui tre ragazze. Ragazze giovani, le quali, poiché siamo in estate, portano gonne corte e canotte attillate. Ragazze che sanno di profumo, e sotto il profumo sanno di femmina, di ascelle, di fica, ragazze che fanno perdere la Trebisonda al branco di Zec, che loro stesse stanno mettendo in posa per l'appello del mattino, sul terrapieno centrale. L'ora dell'appello è passata da un pezzo, ma la troupe non è arrivata abbastanza presto per assistere a quello vero, e a ogni modo il regista ha una sua idea di come debba essere un vero appello. Il direttore si aspettava che nelle prime file venissero schierati i detenuti più presentabili, come lui stesso esige quando arriva in visita una delegazione. Mentre con il procedere delle riprese diventa sempre più chiaro che il regista non ha intenzione di mettere in risalto le attrattive del luogo e la buona cera dei suoi ospiti, bensì dimostrare che l'avventuroso scrittore Limonov viene fuori dall'inferno. Nonostante le proteste del direttore, le graziose assistenti hanno il compito di riunire i ceffi più repellenti e il cameraman di staccare sulle crepe dei muri, sulle pozzanghere fangose, sui cumuli di immondizia, cosa piuttosto difficile in una colonia penale tutto sommato molto ben tenuta. Non voglio puntare l'indice contro di loro, Io ho fatto esattamente lo stesso quando ho girato una sequenza del mio documentario nel carcere minorile di Katielnic, dove speravo di trovare uno spettacolo da girone dantesco, e a malincuore mi sono dovuto rassegnare al fatto che così non fosse. In mezzo a quel trambusto, Edouard esegue coscienziosamente ciò che gli è stato chiesto. Recita la parte di se stesso. Nella scena dell'appello, incorniciato da due comparse dotate di perfette facce patibolari, urla a pieni polmoni cognome, nome, patronimico e gli articoli in base ai quali è stato condannato. È l'ultima volta che lo fa, ma saranno necessari 3 ciak, perché il regista non è soddisfatto né del primo né del secondo. Poi, nel refettorio, si spazzola la sua sbobba, continuando a parlare in modo naturale con gli altri. «Ragazzi, fate come se noi non ci fossimo», ripete il regista. «Fate come se fosse un giorno qualsiasi». Nel complesso i detenuti si divertono e si contendono l'onore di essere inquadrati accanto al protagonista. «Mi si vede così? Mi si vede?» chiedono sgomitando. E Edouard, pur continuando con loro quella conversazione falsamente naturale, falsamente qualsiasi, di cui non resteranno che le sue battute, perché soltanto lui è stato microfonato, pensa che ha fatto una stronzata ad accettare che ci fosse la televisione. Pensa che sia un vero peccato andarsene così. Forse pensa addirittura che molto semplicemente sia un peccato andarsene. Certo, non vede l'ora di ritrovare la libertà, la piccola Nastia e i ragazzi del partito, ma non sarà mai più l'uomo che è stato lì dentro. Si può ben dire che il campo è l'inferno, ma Edouard, con la sola forza dello spirito, ha saputo farne un paradiso. Quel luogo per lui è diventato accogliente come il convento per un monaco. I 3 appelli quotidiani erano le sue funzioni, la meditazione la sua preghiera e il cielo, una volta, si è aperto per lui. Ogni notte nella baracca, circondato dai compagni che russavano, si è segretamente inebriato della propria forza, del duro metallo di cui è fatta la sua anima sovraumana, nella quale si stava ultimando un processo misterioso, iniziato nell'Altai, accanto al trapper Zalatariov. Una liberazione autentica, eterna. E all'improvviso Edouard si chiede se la liberazione temporale non rischi di privarlo di quell'altra. Ha sempre pensato che la sua vocazione fosse immergersi il più a fondo possibile nella realtà. E la realtà era lì. Ora è tutto finito. Si sta lasciando alle spalle il miglior capitolo della sua vita. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.